24, i gialli della storia. Giulio Einaudi è la curiosità, non ho dubbi. Lui è stato veramente un grande pioniere. Per il suo intervento attraverso l'editoria nella vita e nel progresso di un paese. Correva sempre avanti e ci trascinava tutti in questa corsa, ma lui correva più veloce di tutti. È un editore puro, in qualche misura, anche proprio perché non è un intellettuale. Se il libro era utile, era interessante, lui lo faceva pubblicare anche se vendeva poi soltanto 1000 copie. Giulio Einaudi è il più grande editore italiano di cultura del Novecento. Uno struzzo in campo vale che stringe un chiodo nel becco è un motto in latino. Lo spirito riesce a digerire anche le cose più dure. È il marchio della casa editrice Einaudi che negli anni ha scoperto e pubblicato autori come Italo Calvino, Primo Levi, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg e Elsa Morante. Nato a Torino nel 12 e figlio del futuro Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, Giulio Einaudi fonda la sua casa editrice nel 1933, in pieno regime fascista a soli 21 anni. Dotato di uno straordinario fiuto per il talento, con i libri dello struzzo ha contribuito in modo determinante a plasmare la cultura italiana del dopoguerra. Un genio istintivo che lo porta a circondarsi fin dagli inizi delle menti più brillanti dell'antifascismo, come Leone Ginzburg, Massimo Mila, Franco Antonicelli e Norberto Bobbio. Inoltre la sua vita è stata essa stessa un romanzo punteggiato di intuizioni brillanti, innamoramenti improvvisi nei campi più diversi, passioni eclettiche, incontri straordinari che lui ha raccontato nell'autobiografia Frammenti di memoria, di cui ascolteremo alcuni brani. Noi oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia attraverso le testimonianze di amici e dei collaboratori più stretti, di Irene Piazzoni, docente di storia contemporanea, del nipote Malcolm, di alcuni autori che lo ricordano come Sebastiano Vassalli, Alberto Asor Rosa, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Rossetta Loi e Norberto Bobbio. La primigenia fisionomia dell'Einaudi è impressa dalle due riviste che rileva e che la collocano subito in una posizione eccentrica rispetto agli orientamenti del regime. La cultura, che aggrega un gruppo di intellettuali torinesi in cui è ancora viva la lezione di Piero Gobetti, e la riforma sociale di Luigi Einaudi, vessillo delle teorie liberiste e antidirigiste. Il primo libro pubblicato è appunto Che cosa vuole l'America di Harry Wallace, del rooseveltiano Harry Wallace, che è occasione per misurarsi con il tema del New Deal. Wallace era uno democratico di sinistra, un po' pianificatore. Cioè, mio padre era lì che cercava di aggiustare le cose, non era tanto favorevole lui alle pianificazioni. Allora Mussolini si è scagliato contro, ha fatto un editoriale sul Popolo d'Italia, ha ripreso tutti i giornali, ha fatto una pubblicità enorme. L'imprinting paterno è stato decisivo, è stato fondamentale. C'è un pensiero straordinario di Luigi Einaudi nel 21, che non è proprio un anno facile in Italia, che dice che il sale della democrazia è lo scontro dialettico anche forte. Non nasce per un progetto imprenditoriale, per fare soldi, per vendere libri. È una specie di zattera per riuscire a galleggiare, a far galleggiare e sopravvivere una serie di amici e la loro dignità intellettuale in un'epoca nella quale il solo fatto di avercela, la dignità intellettuale, era eversivo. Loro erano un cuneo, una punta che tentava di rompere, appoggiandosi alle intelligenze più brillanti di allora, questo contesto, come dire, oppressivo, ma non per scherzo. Ci hanno lasciato la pelle. Leone Ginzburg muore, tutti vengono arrestati, Pavese viene mandato al confino. Sotto la morsa di una dittatura, durante una guerra infernale, sotto i bombardamenti, al massimo abbiamo fatto quello che potevamo fare, libri non conformisti, non sottomessi. Pensavamo a un progetto editoriale con interventi nel campo della storia, della critica letteraria, della scienza, e con l'apporto di tutte le scuole valide, non appiattite dal prevalere della politica sulla cultura. Cercavamo, come i poeti, di cantare il domani. Ma qual era il carattere e il metodo di lavoro di Giulio Einaudi? Giulio Einaudi era un uomo di regole. Mi ricordo di essere stato presente a una disputa sulla Force de Frappe di De Gaulle. Uno degli amici carissimi, forse uno dei più cari di Giulio Einaudi, riesce a dirgli: stai zitto tu che pubblichi soltanto libri che nessuno legge. Lui si è alzato in piedi, era pallido e ha detto: sei in casa mia, sei un mio ospite, non ti posso mandar via, me ne vado io. Einaudi era certamente affascinante per gli scrittori. Io lo trovavo affascinante anche come uomo. In Italia se non si resta nell'umanesimo, nella letteratura, eccetera, subito tutti trovano da dire. Ora la gente ha bisogno di libri che gli servano, che siano formativi, e quindi l'attenzione maggiore nostra è stata rivolta in questo campo. Certe volte qualche critico letterario, può darsi che sia stato escluso e si è trovato un po' a disagio. Ogni mercoledì alle 5 del pomeriggio i collaboratori della casa editrice si riunivano, mitica riunione delle Einaudi, un punto di forza della casa editrice, un metodo prediletto da Einaudi, un confronto continuo di intelligenze conflittuali. Al tavolo del mercoledì c'erano dei posti tacitamente assegnati, insomma. Al centro, vicino alla porta, sedeva Giulio Einaudi, alla sua destra c'era Norberto Bobbio, alla sinistra Massimo Mila, alla destra ancora di Bobbio c'era Italo Calvino, che si divertiva a recitare la parte dell'oratore imbranato. Naturalmente era molto autoironico e molto divertente. E poi ancora c'era Giulio Bollati e via via poi tutti gli altri collaboratori, gli ospiti, i redattori e gli amici che venivano a trovarci. Per cui, come dice Bobbio, era una delle riunioni in cui in breve tempo si imparava moltissimo. Io ho partecipato, non so quante volte, centinaia di volte, a queste riunioni del mercoledì, e quindi naturalmente ne ho un grande ricordo, perché per me sono state una fonte inesauribile di conoscenze e di nuove esperienze. Era l'idea che fosse un tavolo ovale, cioè la leggenda che intercorresse fra di loro una parità. Ognuno aveva la sua mansione. Però Giulio Einaudi amava anche mescolare le competenze, cioè provocava interventi da parte di chiunque su qualunque materia. Faceva leggere di scienza ai letterati e di lettere agli scienziati, insomma, e faceva leggere lo stesso libro a due persone che sapeva che la pensavano in modo radicalmente diverso, e gli interessava proprio questo confronto. Io l'ho visto soppesare il parere dei suoi collaboratori, ma a un certo punto non c'è dubbio che le scelte decisive le faceva lui, e in 90 casi su 100 io direi che erano quelle giuste. Una delle altre trovate geniali di Einaudi era proprio quello di portare i collaboratori, i consulenti esterni, ma anche degli illustri autori di passaggio che fossero in Italia in quel momento, in montagna alla fine di giugno, nella Harem Notre Dame, che è una delle valli laterali della Val d'Aosta, dove c'era un albergo allora molto rustico e molto simpatico, e lì si stava una settimana tutti insieme. Si creava un po' anche questo clima da gita scolastica, poi si andava a camminare, a mangiare polenta su al rifugio tutti insieme. C'era un bellissimo spirito di squadra, e che naturalmente era anche molto molto produttivo. Giulio Einaudi amava anche molto la sua terra, le sue origini, la sua storia, come raccontano Alberto Asorrosa e Ernesto Ferrero, redattore della casa editrice. In Giulio Einaudi c'era una componente alto borghese indubitabile. Difficile dimenticare che era figlio di Luigi Einaudi. Essere figli di Luigi Einaudi significava avere un rapporto con la propria terra profondissimo. Il legame con le Langhe e con Dogliani e con la casa di San Giacomo era fortissimo, era come dire la traduzione visiva e materiale anche di un'idea, di un modo di stare al mondo, di un modo di lavorare. La prima straordinaria cosa che ho visto fare a Einaudi, che mi aveva colpito moltissimo, era stata proprio quella di donare questa biblioteca ideale, questa biblioteca modello alla città di Dogliani, che poi avrebbe dovuto essere replicata in tutta Italia. La biblioteca civica Luigi Einaudi è di tutti i cittadini di Dogliani. Il suo servizio è gratuito. Tutti possono entrare liberamente per leggere o consultare i libri che desiderano o per ascoltare dischi di valore culturale. Con la storia di Giulio Einaudi e della sua casa editrice riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Giulio Einaudi e della passione con cui ha fondato e diretto la sua casa editrice. E in questa passione c'è anche una ricerca maniacale della perfezione stilistica. Questo è sempre stato uno sport molto, molto amato in casa editrice, quello di scegliere le immagini per le copertine. Uno sport che appassionava molti di noi, a cominciare dall'editore stesso. Per la copertina, in alcuni casi, è intervenuto l'editore in persona, con la sua autorità e con la sua esperienza, in modo vincente. Per esempio, per Se non ora quando, mi ha fatto una proposta che lì per lì mi ha stupito, perché era una bellissima copertina ma poco pertinente all'argomento del libro, che però poi ho accettato e adesso amo. Il perseguimento della qualità era assoluto, c'era uno straordinario direttore tecnico che è Oreste Molina, al quale anche lui in fatto di grafica era rigorosissimo. Poi d'altra parte la grafica rigorosissima di Einaudi faceva parte integrante del progetto e diceva e spiegava già tutto. Gli venivano portati i libri nuovi, la prima copia appena uscita, lui la apriva e naturalmente paf, andava a beccare la nota sbagliata, il refuso. Ascoltiamo il pensiero degli scrittori Rosetta Loi, Sebastiano Vassalli, Natalia Ginsburg e Alberto Asorrosa sulla casa editrice Einaudi. Chi come me ricorda questo paese nel dopoguerra, insomma, ricorda la casa editrice Einaudi come una delle tre o quattro eccellenze che l'Italia aveva in quegli anni. I libri di Einaudi io l'ho conosciuti la prima volta attraverso un ragazzo che poi sarebbe diventato mio marito, perché li vendeva a rate. E così ho cominciato a conoscere questa casa editrice che mi sembrava mirabile, un sipario che si apriva. Le traduzioni erano mirabili, perché ad esempio quelli di Proust, tradotti da Natalia Ginsburg, erano dei libri meravigliosi. A me hanno detto di tradurre Proust e era una cosa che a pensarci adesso era imprudente, perché io ero giovanissima e molto ignorante. Comunque ho cominciato a tradurre, sono riuscita a tradurre in 8 anni solo Du Côté de Chesvan. Il ruolo della casa editrice Einaudi nel campo della letteratura italiana del Novecento è praticamente decisivo. Einaudi alleva praticamente alcuni dei nostri più grandi scrittori del secondo Novecento, Pavese, Calvino, Ginsburg, Morante. Ma anche la casa Einaudi ha nella sua storia anche qualche insuccesso e qualche scelta discutibile, come raccontano sempre Irese Piazzoni, Primo Levi e Alberto Asorrosa. Come la storia di tutte le case editrici, anche quella di Einaudi non è esente da errori o scelte controverse, discutibili. Un caso è quello del libro di Primo Levi, Se questo un uomo, che è accolto nel catalogo solo nel 1957, era stato rifiutato 10 anni prima. La tendenza nel dopoguerra è quella di non pubblicare testimonianze sui campi di concentramento, cioè prevale un'altra urgenza, quella di corrispondere al desiderio di rimozione, al desiderio di voltare pagina, di ricostruire, che era molto diffuso nel pubblico dei lettori del tempo. Il mio primo libro, Se questo è un uomo, l'avevo presentato a diversi editori, fra cui anche Einaudi, ed era stato rifiutato. È stato poi accettato da un piccolo editore che ha chiuso i battenti pochi anni dopo, ed è stato poi accettato dalla Einaudi solo 10 anni dopo, nel 57. Un altro rifiuto famoso, il rifiuto dei rifiuti nella storia dell'editoria italiana del Novecento, è quello del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Si deve a Elio Vittorini e non stupisce. Vittorini riteneva il romanzo piuttosto vecchiotto, diceva, cioè troppo polveroso di passato per poter essere inserito in una collana così sua, così selettiva, così sperimentale, quella anche stravagante, qual era la bellissima collana dei Gettoni. E poi infastidivano Vittorini quei tratti tipici della sicilitudine, per dirla con Sciascia, che affioravano dal romanzo di Tomasi di Lampedusa: l'immobilismo, il pessimismo e anche quel gusto della scrittura come esercitazione letteraria, come gioco, diceva Vittorini, gioco raffinato ma amaro. Beh, non c'è dubbio che Il Gattopardo non è un libro Einaudi, perché è un libro tutto proiettato al passato, con una valenza letteraria non innovativa. Libri Einaudi sono tutti libri di Calvino. Le città invisibili avrebbe potuto difficilmente essere pubblicato altrove. In una continua ricerca di innovazione di nuovi scrittori, Einaudi promuove il premio per l'editoria, il premio Formentor per i giovani talenti. Ancora Irene Piazzoni e Malcolm Einaudi. È su iniziativa di Einaudi e dell'editore poeta catalano Carlos Barral che nel 1961 a Mallorca nasce il Premio Internazionale degli Editori, cui si affianca il Premio Formentor per gli inediti, creato, dirà Einaudi, per premiare la ricerca letteraria più avanzata. Giulio Einaudi parla di questo premio e lo classifica come un tentativo di essere un anti-Nobel. Non era un premio letterario che premiasse un libro, ma era un premio letterario che premiava un inedito, cioè un manoscritto. A differenza del Nobel, che premia la carriera ormai affermata di qualcuno che ha raggiunto una chiara fama, quello era un premio che segnava la nascita di un protagonista della cultura. E il premio sarà conferito a scrittori del calibro di Beckett, Borges, Gombrowicz, Gadda, Solbello e tra gli esordienti anche Adacia Maraini. Nel 63 cadrà la scure della dittatura franchista e il premio sarà costretto a migrare. E poi la casa editrice inaugura la stagione delle grandi opere. Anche questa scelta sarà un successo. Ancora Irene Piazzoni e Alberto Asorrosa. Negli anni 70 si apre la stagione delle grandi opere, la inaugura la storia d'Italia che per impostazione, innesti, apporti e vastità di orizzonti metodologici, tematici, segna uno spartiacque per la cultura storiografica del nostro paese, apre proprio una breccia in direzione di tendenze fondamentali della storiografia europea, come era del resto nella tradizione della produzione storica della casa editrice fin dalla prima collana. È un'opera molto fortunata commercialmente, nei primi anni si supereranno le 100.000 copie. Ebbi l'idea di proporre una grande opera che affrontasse la letteratura italiana non da un singolo angolo visuale, ma da molti punti di vista, quello sociologico, quello storico, quello analitico. In casa editrice ci fu una discussione molto, molto vivace. E ci furono anche opposizioni molto vistose. E a un certo punto Giulio Einaudi mi disse che aveva deciso di farla. Credo di poter dire con un successo editoriale anche molto vistoso. Con la storia di Giulio Einaudi e della sua casa editrice riprendiamo dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago. Dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, che oggi vi sta proponendo la storia della casa editrice Einaudi e del suo fondatore. Ancora Sebastiano Vassalli, Irene Piazzone, Alberto Arrososa e Malcolm Einaudi. Ogni giornata doveva avere qualcosa di speciale, di memorabile, perché incontrava appunto un personaggio straordinario, perché scopriva un pittore che domani sarebbe diventato grandissimo, perché in collina aveva trovato quella tale trattoria che faceva la frittata con le cipolle in un certo modo. Ci deve essere da qualche parte un'intervista a Vittorio Foa dove lui racconta di una passeggiata in montagna con Giulio Einaudi, nella quale incrociano a un certo punto una giovane coppia di punk con vistosi piercing, tatuaggi, capelli fosforescenti, e in cui Foa dice a Giulio: avresti mai immaginato qualcosa di simile? E molto divertito racconta che la risposta di Giulio Einaudi è stata: beh, è meglio adesso. E alla fine degli anni 70 anche questa famiglia felice entra in crisi. Lo stesso Einaudi racconta che la crisi che sarebbe arrivata poi di lì a qualche anno non era solamente un fatto, come dire, di tecnica finanziaria, perché la casa editrice, non avendo mai potuto godere di risorse finanziarie sue, più produceva e più perdeva, ma ripeto, lui stesso ammette che è stata anche proprio una specie di crisi progettuale, insomma. Sullo sfondo però c'è anche la crisi generale, la stretta creditizia e il riassetto radicale che vive nel suo complesso l'editoria italiana negli anni 70, nonché la morte del banchiere Raffaele Mattioli, che è stato un grande sostenitore della casa editrice. In una situazione di criticità economica dovuta a un'eccessiva esposizione con tassi estremamente elevati, Giulio Einaudi commette una falsa comunicazione in bilancio. Quindi è tutto un insieme di fattori che fanno venire al pettine i nodi della endemica fragilità finanziaria della casa editrice, che porteranno al commissariamento. Questa crisi credo di doverla individuare sostanzialmente in due fenomeni: un fenomeno finanziario, perché c'è stato un aggravio di ricorso al credito esterno, e la seconda certamente una dimensione del personale superiore alle esigenze effettive di sfruttamento dell'azienda. L'amministrazione controllata non fu un destino inevitabile. Era stato raggiunto un accordo con i principali azionisti, in base al quale, a fronte di una rinuncia a percepire dividendi per un discreto periodo, si sarebbe potuto provvedere una ristrutturazione del debito e salvaguardare la continuità produttiva della casa editrice. Questo accordo avrebbe dovuto essere ratificato entro il 31-12 dell'anno 82-83, non mi ricordo in cui la cosa fu concordata. Questo consiglio di amministrazione della BNL saltò per una questione di assenza di numero legale, e per il mero fatto di dover andare a una riunione nell'anno fiscale successivo, questa situazione andò a spalancare l'abisso del fallimento. L'amministrazione controllata inizia da subito con quello che nella memoria di alcuni è classificabile come un colpo di mano. Si parla del fatto che fosse stato concordato con l'allora Presidente della Repubblica Pertini un determinato nome. Nella notte antecedente alla nomina, l'allora Ministro dell'Industria torinese, di sponda politica molto lontana, Renato Altissimo, sostituisce questo nome con quello di un commissario, di un avvocato d'affari torinese, che è l'avvocato Rossotto. Al termine di questi tre anni, quando si tratterà di chiudere l'amministrazione controllata, su istanza di parte il commissario liquidatore chiederà il rinvio a giudizio di Giulio Einaudi per bancarotta fraudolenta. che questo fosse palesemente infondato risulterà anche dagli atti del processo, che lo vedrà ovviamente assolto, ma è una mossa che è servita in qualche modo a tenere Giulio Einaudi fuori gioco nei primi 2 o 3 anni successivi al nuovo assestamento proprietario. Questa falsa scrittura in bilancio che origina tutti i problemi era una scrittura che ammontava a 1 miliardo di vecchie lire. Quando gli asset positivi della casa editrice vengono mandati all'asta 3 anni più tardi, sarà aggiudicata per 27 miliardi, in una gara tra l'altro che non ha visto concorrenza, perché le varie cordate che si erano preparate alla fine confluiscono in un unico soggetto societario. Nella successione delle crisi di cui la casa editrice fu vittima, fui raggiunto da una telefonata di Giulio Einaudi che mi invitava ad accompagnarlo ad un appuntamento con il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Quando ne uscimmo, Giulio Einaudi mi disse una frase che non ho mai dimenticato, e cioè: ciò che mi preoccupa di più sono le sorti della casa editrice. Di me non mi importa. Io sono entrato in questa casa editrice nudo e ne esco nudo. Einaudi ha ricominciato proprio dal gradino più basso, da una piccola consulenza, e pian piano ha recuperato tutto il suo terreno e è morto facendo l'editore di nuovo. Non era più ossessionato da problemi bancari, gestionali, amministrativi, per i quali non credo poi fosse particolarmente portato, e invece insomma poteva dedicarsi alla sua creatura, teneva conferenze, riceveva lauree honoris causa ed era, devo dire, anche un commensale di straordinaria gradevolezza. Insomma, gli ultimi anni sono stati veramente felici e io devo dire lo ricordo con grande commozione. Ascoltiamo adesso Giulio Einaudi in un faccia a faccia realizzato in occasione dell'uscita del suo libro Frammenti di memoria. Giulio Einaudi, torinese puro sangue, 76 anni, editore e adesso anche scrittore, figlio di Luigi, celebre economista, secondo presidente della Repubblica Italiana dal 48 al 55. Un editore sempre all'avanguardia, sempre preoccupato della qualità più che della quantità. Poi però, dall'83 all'86, l'Einaudi vive momenti tristi e drammatici. Dall'86 in poi va meglio, perché arriva De Benedetti. Il suo è un brutto carattere ed è leggendario, anche tra i suoi veri amici, passato alla fine da Antonio Gramsci a Carlo De Benedetti. Bene, allora, dottore Einaudi, da Gramsci a De Benedetti, come si sente? Ma intanto questa affermazione sua del passaggio a De Benedetti mi pare che sia un po' beh, insomma, nuova. Più o meno, tanto per no, capire. Vabbè, più o meno, vedete le cose in regola, la maggioranza della casa editrice è di proprietà dell'Electa di sì, Milano. Sì, ma abbiamo visto anche la Mondadori com'è andata poi, poco poi De Benedetti. Vediamo. Vabbè, in ogni caso, insomma, vediamo. Da Gramsci a De Benedetti. Vediamo, comunque Benedetti è uno che io stimo e quindi penso che anzi come imprenditore europeo può darsi che possa dare un aiuto a ma quello lei lo che conosce personalmente? Eh? L'ho conosciuto una volta molto a fondo, poi ci siamo un po' persi di vista e che ogni tipo tanto è? Se dovesse definirlo, come lo definirebbe? Tipo molto dinamico, simpatico a suo modo. Ma se diventasse il padrone assoluto dei Einaudi le sarebbe contento o no? Se le augura o no? Non lo so. Come mai a lei non è mai venuto in mente di chiedere l'aiuto all'avvocato Agnelli per risanare un po' i problemi dell'Einaudi? Perché De Benedetti e non Agnelli? Cioè lei non ci ha pensato andare da Agnelli a chiedere un aiuto? Ma tempo fa, ancora al tempo di Raffaele Mattioli, si era parlato di un eventuale intervento. Molto lo so. No, ma lui aveva risposto con una battuta: stiamo su due sponde, restiamo così, è meglio per lui e per me. L'avvocato l'ha detto? Pare, allora. Sì, pare che abbia detto a Mattioli, Mattioli mi ha riferito. Senta, ma 20 anni fa, nel 68, se le avessero detto che l'Einaudi, da bandiera del pensiero autonomo, della cultura di sinistra, sarebbe diventato il fiore all'occhiello del capitalismo, ci avrebbe creduto? Beh, intanto, fino adesso non è il fiore dell'occhiello. Ma insomma, stiamo No, insomma. Vabbè, insomma, lei sì, sottilizza, ma insomma non più o meno. Non sottilizzo niente, no. È la verità, mi rifiuto di Quindi se capitasse, immagine, lei se ne andrebbe? Certo, sicuramente. Certo. Sì, a meno che loro si mettano questo fiore lasciandolo con me. Io lo innaffino e basta. Sì, insomma. Certo, quello è importante. Senta, comunque il gruppo Mondadori, Electa e Naudi è uno dei più grossi del mondo, visto nel suo insieme. Ecco, nel futuro dell'editoria ci sono solo supercolossi, secondo lei? No, io credo che dovrebbero esserci e ci saranno. Spero che ci siano dei piccoli editori che crescono e che diventano come quello che è diventata l'Einaudi negli anni 60, 70 e quello che è diventata la Feltrinelli. Cioè, quindi lei pensa che abbia ancora un senso? E abbia molto, molto senso, sì. Ecco, c'è una cosa curiosa, però adesso lei ha scritto un libro, Frammenti di memorie, però lo ha pubblicato con Rizzoli, né con Einaudi, né con, non so, Adelphi, un piccolo editore di prestigio o qualche altro. No, con Rizzoli. Perché? Perché me l'ha chiesto. E basta questo? No, ma me l'ha chiesto con una certa grazia, un certo garbo e con una intelligenza editoriale che non avevo sospettato in questa casa editrice. Quindi c'è anche un po' di autocritica intesi, in questo. Ci siamo intesi. Senta, lei in un'intervista all'Espresso con Ferdinando Ardornato, ha detto che oggi gli scrittori cercano la scrittura facile. Come dovrebbe essere uno scrittore? Cosa imputa ai Luca Goldoni, intesi non come persone singole, ma come modello di scrittore? Cosa gli imputa? Gli imputo niente, gli dico che sono... guardi, che io per esempio in questo libro ho cercato di essere anch'io facile. Sì, però questo l'ha detto, volevo capire cosa c'era in questa critica. Dov'è il punto della critica? Il punto della critica è che c'è la possibilità di a furia di diventare facili, Di non dire niente, sull'acqua fresca che ti esce dalla fonte, che tutti bevono. Cos'è che le dà fastidio dell'editoria dei bestseller? Perché sono testi fabbricati su misura, con tutti gli ingredienti che possono oggi incuriosire la cosa. Il grande poeta, credo, Montale, credo che poetasse pensando a questo. Cioè, quindi lei spera che il suo non sia un bestseller? No, io spero che lo sia, perché non l'ho scritto con la presunzione di essere uno scrittore. L'ho scritto per fare una cosa che mi liberasse da tanti e mi tirasse fuori tanti ricordi che altrimenti venivano persi. Però ha anche scelto una casa editrice che produce bestseller. Sì, certo, scelto, ma neanche. Insomma, vabbè, insomma, c'è stata, si sceglie sempre in due, ci si sceglie, tutto sommato. Ecco, no, voglio dire, lei dice, nell'editoria oggi contano solo il denaro e il successo. Ecco, invece per lei cosa conta? Il prestigio, la qualità, quello di riuscire a trasmettere in chi ti legge qualcosa che ti sorprende, che è nuovo. Senta, sempre a proposito di bestseller, ma lei nella sua collana Einaudi, Eco, l'avrebbe pubblicato o no? Certo. E cosa pensa di Eco? Bene. Bene quanto? Tanto. Il massimo? Massimo, se lo pensa per Dante Alighieri, ecco. Quindi. Cioè il massimo lei lo pensa per Dante Alighieri? Sì. Per arrivare ai giorni nostri, non so, Montale, massimo. E romanzieri del nostro secolo? Uno, due, non dico mica. Proust, forse. Senta. Di lei hanno detto un po' di tutto, che è stato un azionista, un liberal progressista, un comunista, un socialista, un umanista radicale. Cioè, lei come si definirebbe? Se c'è una definizione alla quale si riconosce? Beh, uno che gli piace la democrazia, quindi gli piace sentire le opposte opinioni in tutti i campi politici, ideologici, culturali, quindi si diverte. Quindi, certo che mi diverte sentire Benedetto Croce, Malagodi, Luigi Einaudi. mi piace meno altri liberali, forse più politici attivi. Senti. E mi piace certi comunisti, Berlinguer, mi è piaciuto anche Togliatti che lo fa. Ecco, no, infatti appunto, lei ha avuto un rapporto singolare, no, mi pare, sì, con Togliatti. Ne difende le azioni e la memoria. Ecco, perché? Che cos'è che la, insomma, che cosa difende? Difendo la sua, intanto la sua grande abilità politica di cogliere un momento e di portare le masse alla democrazia. Lui, delle masse che erano agitate, rivoluzionarie, le ha portate alla democrazia. Ecco, lei ha detto, un merito enorme suo. Infatti lei difende di Togliatti anche la sua doppiezza, di cui dice era una politica di lucida chiarezza. Nel senso che sentiva come colpa, ma che aveva dovuto subire questa sua appartenenza al Comintern con tutte le conseguenze nefaste. Lei dice che sul Comintern e su Stalin Togliatti era evasivo. In che senso era evasivo? Era evasivo perché evidentemente... Ma perché lei cosa le chiedeva? Io l'ho chiesto le memorie, le memorie del Comintern, della sua attività al Comintern. E lui cosa gli ha detto? Ha detto che non aveva tempo. Che non aveva tempo? Non aveva tempo, altro da fare. Ecco, ma a proposito di tempo e di altro da fare, ecco... Togliatti aveva un vero interesse per la sua divulgazione, per esempio, del pensiero autentico di Gramsci, oppure controllava molto? No, lui aveva un forte desiderio della divulgazione. Senza controlli, niente di tutto questo? Niente di tutto questo. Senta, lei ha scritto che un libro che abbia un vero valore ti muta nell'intimo. Ecco, che cosa vuol dire esattamente? Quello che dicevamo prima, senza essere d'accordo, sul libro di divulgazione piatta e su quello che ha un po' di fantasia, un briciolo, per cui certamente i libri di Calvino, per esempio, i libri di Calvino ti mutano nell'intimo. Ecco, ma qual è il libro che lo ha trasformato di più nell'essenza, che lo ha mutato di più? Io? Sì. Magari non è uno solo, uno o due, ma insomma i più importanti da quel punto di vista. Ma è una cosa che ti muta impercettibilmente, non te ne accorgi neppure. Una cosa progressiva. Quindi non riuscirebbe a dirmi. Può essere Kafka, può essere Gadda, può essere Calvino, capito? Sono questi tipi di scrittori che hanno, può essere una poesia di Montale. Senta, lei comunque ha deciso di non pubblicare Il Gattopardo perché l'ha considerato un libro troppo tradizionale. Adesso è pentito o lo rifarebbe? No, non sono pentito. Cioè, contento? Sono contento, non rimpiango, ha avuto un gran successo. Non rimpiango. Ma lo perché metto... non rimpiange? Perché era troppo tradizionale? Per quello? Sì. La ragione è quella? Sì. Il critico e poeta Giovanni Rabboni ha detto che i limiti delle sue scelte, della scelta della casa editrice quando la dirigeva lei, sono state di aver condiviso i vizi della cultura di sinistra e di un certo fanatismo ideologico. Lei riconosce qualche cosa di vero in questa critica oppure non me la ricordo questa di Rabboni, ma è esagerato. Esagerata, non c'è niente di vero? No, niente di vero no, un pochino si sarà forse. Vizi, ma allora vizi di sinistra e vizi anche di altri altre ideologie. Senta, glielo chiedo perché, per esempio, l'aver pubblicato le opere di Che Guevara nella stessa collana di Omero e di Shakespeare è una cosa che rifarebbe, che trova giusto, oppure in quel momento lì andava anche bene. Magari adesso non lo ristampo, un libro che non ha più, ma in quel momento però gli altri due li ristampa in quella collana. Sì, si ristampa Omero, si ristampa. Allora voglio dire, forse Omero c'è un po' di autocritica in questo. Sì, guarda che è ancora interessante Che Guevara da leggere oggi. Sì, ecco, ma mettiamolo in un altro modo. C'è qualcosa che riconosce oggi, che lei riconosce essere stato cultura importante e che non è passata per lei Einaudi e che le dispiace? Messa così. Adesso così ex abrupto, certo c'è stata. Adesso non è che voglio un'indicazione. Ce n'è stata, sì. Certa filosofia importante che è passata un po' marginalmente da Einaudi, per esempio. Senta, Eugenio Montale mi ha dedicato, in una copia del libro L'opera in versi, la dedica era a Giulio con affetto e terrore. L'affetto lo capisco, il terrore perché? Ma si vede che era impressionato da un po'. lei non è impressionata, d'accordo. Non è terrorizzata da me. No, no. Io no, ma Montale era un grande poeta, quindi può darsi che lei lui lo frustava, non so, poi aveva un rapporto diverso da quello che ha con ma me. Ma è una cosa che gli è venuta di getto così, sì. Magari non... Non l'ha fatta riflettere sul fatto di ci ho pensato tanto, ci ho pensato tanto. Ha pensato che si era sbagliato lui. E... non lo so se... però io lo lascio, cioè, ho voluto metterlo vero, per darlo al giudizio dei brutto al carattere giudizio, proprio vero. Senta, ma il suo peggior difetto qual è? Ma tutti quanti hanno fatto una cosa, un'inchiesta pochi giorni fa su non so che rivista, domandando a questo com'ero. Cioè, bravissimo, però un carattere pezzi. Ecco, no, io domando... vorrei sapere da lei il suo peggior difetto. Lei quando si guarda allo specchio la mattina, qualcosa si dirà anche ogni tanto. Boh. Non lo so, non io tempo. Penso che questo sia dovuto sempre a un certo una cosa episodica. Cioè? Per esempio, metà mezzogiorno si annuncia Thomas Mann in ufficio, no? Viene a fare una visita a cosa, poi dice Thomas Mann, lo vedo salutare. È mezzogiorno, a l'una ti scade una cambiale da 1 miliardo, che tu non hai neanche una lira. Sei agitato, stai telefonando a banca, eccetera, per trovare il tuo miliardo, l'ultimo cosa. Arriva Thomas Mann, gli dai la mano, guardando, aspettando che suoni il telefono perché il banchiere Y sì. Ti dica sì, te li do. Capisci? Allora, questo atteggiamento. Questo si capisce. No, ma questo atteggiamento un po' freddo con gli autori che aspettavano magari di essere abbracciati, vieni qui, stiamo a colazione insieme. Perché lei ogni volta cercava 1 miliardo quando incontrava gli scrittori, era sempre per questo 50 anni sono stati, naturalmente prima era meno di 1 miliardo. Sì, io le faccio solo notare che lei un difetto suo non me l'ha detto, quindi non ce l'ha, devo desumere. Ma io sono buono, io sono molto buono. E... Senta, non parliamo allora di difetti, ma di vezzi. Dicono che quando lei in questi famosi incontri, ritiri che faceva con i suoi collaboratori, aveva l'abitudine di mangiare i piatti di tutti, è vero? Forma è una cosa esagerata. È vero o no? Sì. Ma perché? Ma non è solo con i collaboratori, quando sei a tavola in cosa, tu guardi cosa scegli il vicino e sei incuriosito, gli dici posso? E l'altro ti dice sì e lo prendi. Tutto tranne una volta mi è successa una cosa che l'hanno stoppata con Manganelli. Ho detto faccio posso e lui non toccare il mio truocolo. Nel suo libro dice che suo padre non l'ha mai presa in braccio e che al massimo in segno di affetto le toccava, le accarezzava i capelli. Ecco, lei ha sofferto nella sua vita per questa mancanza di fisicità da piccolo? Ma io ero molto contento di questa cosa. Cioè, non l'ha fatto soffrire? No, non ho mai sofferto. No. Senta, ma perché lei dice che la critica italiana, e citati compresi, non vale niente? È esagerato, adesso non so se l'ha detto. Ma l'ha detto lei, non mica io. Ma non l'ho detto nel libro. Nel libro non l'ho detto. Nel libro non l'ho detto. Uno magari chiacchierando, chiacchiero con lei, magari dico delle cose. Ma voglio sapere, se la Boi citati cosa? Proprio... Ma no, citati lo leggo sempre. Il fatto che lo lega non vuol dire ancora no, lui. Ma sì, un pochino vago, insomma, parla un po' di sé. È bravissimo, solo che io penso che non è che legga tutto un libro, si ferma alla prima impressione e scrive un articolo. Senta, le faccio un'ultima domanda. Se lei non fosse stato Einaudi, chi le sarebbe piaciuto essere? Ci ha mai pensato? No, mi sarebbe piaciuto magari fare, cosa mi sarebbe piaciuto fare o essere. Einaudi mi sarebbe piaciuto essere. Einaudi fare, va bene, ma il fare... Fare, mi sarebbe piaciuto fare il contadino. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.